tempo fragile e denso, di grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Quando uno c'ha paura, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato. Ma a me non mi sta migliorando. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa che trasmette La Conta, trasmissione contro il carcere, che viene ogni mercoledì dalle 15 alle 16 e che è proprio l'ora di una delle tante conte che subiscono coloro che vivono in carcere e che sono appunto, come abbiamo sempre detto, le persone più contate che però meno contano in quanto la loro condizione di vita sembra che è drammatica, sembra che non riscuota particolari interessi da parte di nessuno. E proprio oggi, difatti, oggi mentre parliamo ci dovrebbe essere, anzi ci sarà una udienza, una sessione straordinaria al Senato, Palazzo Madama, sul problema delle carceri. È una richiesta fatta da tempo da varie forze politiche, prevalentemente era l'obiettivo che si è posto Marco Pannella con i suoi scioperi della fame, ma è stata chiesta anche da altre forze politiche, diciamo da associazioni, eccetera. E quindi oggi il Senato dedicherà una sessione straordinaria all'emergenza carceri. Si parlerà, c'è un documento anche stilato da Antigone e altre associazioni del carcere che appunto mettono in luce la devastazione, il massacro, la violazione dei diritti umani, dei diritti delle persone che nelle carceri si realizza prevalentemente dal fatto che i detenuti e le detenute vengono sottoposte ad una regime di vita inaccettabile stante il sovraffollamento, quindi che incide su tutto: la mancanza di igiene, la mancanza di servizi, la mancanza di tutte altre spazi di vita. E quindi oggi si discuterà questa cosa. Quindi leggiamo un'agenzia che dice appunto questa è di ieri, domani il Senato in sessione straordinaria affronta l'emergenza carceri, una realtà disumana che ci umilia in Europa, per dirla con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che è tornato a lanciare l'allarme sull'emergenza del sovraffollamento delle carceri. L'emergenza dai numeri drammatici, 67.000 detenuti a fronte di una capienza di 45.000, la capienza oscilla sempre in realtà intorno ai 42.000, chissà perché la arrotondano a 45.000, comunque sia, sempre, è sempre 25.000 circa, 23-25.000 di più, quindi è una cosa inaccettabile. Quindi questo sovraffollamento centrano tutti, si centra quasi tutti coloro che stanno, diciamo, parlando di emergenza carceri, anche chi come il nuovo ministro Nitto Palma, il nuovo ministro della giustizia Nitto Palma l'ha riconosciuto e ha detto che è inaccettabile, appunto non si capisce, i ministri prima di lui l'hanno accettata e la sta accettando anche lui, anche se non è da molto che è ministro, però finora ha detto che non è d'accordo per l'amnistia, quindi non si capisce come vuole risolvere questa emergenza. Comunque quindi l'emergenza è data prevalentemente, dicono, dal sovraffollamento. Sarà presente ovviamente il ministro della giustizia Francesco Nitto Palma, il nuovo ministro della giustizia, da qualche mese si è insediato, una relazione che farà nella quale che ha preparato il ministro, nella quale ha annunciato nei giorni scorsi la questione del sovraffollamento sarà illustrata nella sua interezza, con l'obiettivo di adottare soluzioni nel rispetto sia della compatibilità politica sia del diritto dei cittadini alla sicurezza. Ecco, già mettendo queste cose, già, come dire, coniugando questi due aspetti, significa praticamente che se anche, come purtroppo è inevitabile, sarà così, e non facciamoci illusioni, perché poi la cosa peggiore è coltivare illusioni che poi vengono smentite. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, è facile essere profeti in questo campo. Non partorirà niente questa discussione al Senato sull'emergenza carceri, anche se poi passerà alla Camera, rimarrà la dicitura emergenza carceri, ma questa non produrrà alcunché. Perché già il fatto che in partenza il ministro dica noi va trovata soluzione per adottare la compatibilità delle soluzioni nel rispetto del diritto di chi sta in carcere e del diritto dei cittadini alla sicurezza, mettendo queste due cose, significa escludere inevitabilmente l'amnistia, che era poi quella che chiedono i radicali chiedono l'amnistia, anche perché dicono l'amnistia è non solo permetterebbe parecchia gente di uscire dal carcere e quindi svuotarle un po', portandole a livelli quasi fisiologici, ma anche di sapete, l'amnistia, a differenza dell'indulto, cancella anche la pena, oltre che il carcere, oltre che l'esecuzione della stessa, della pena, ma anche proprio la pena, cioè viene buttato via tutto l'incartamento. Quindi questo, dice, produce un alleggerimento delle montagne di fascicoli che gravano sulle procure, sui tribunali della Repubblica Italiana. Però, avendo messo queste due cose nell'apertura del discorso, il ministro Nitto Palma, vuol dire che praticamente in omaggio del diritto, quella che chiamano il diritto dei cittadini alla sicurezza, non si farà niente. Comunque, qui continuiamo a leggere l'agenzia. Mentre l'aula discuterà di analisi e proposte, fuori Palazzo Madama, Piazza Navona, è stato annunciato un sit-in dei radicali per spingere il Parlamento all'unica soluzione ritenuta utile, amnistia da sempre invocata da Marco Pannello, che prospetta ricorso contro lo Stato se non sarà presa in considerazione, appunto, la proposta dell'amnistia. Quella stessa amnistia che, al contrario, il neo guardasigilli, il guardasigilli sarebbe il ministro della giustizia, appunto Nitto Palma, considera una soluzione che non ha compatibilità politica, dice Nitto Palma, non è compatibile col quadro politico generale, quindi e perché non ci sono le forze in campo per poterla realizzare. Sapete, per fare un'amnistia ci vogliono i due terzi degli aventi diritto, il voto favorevole dei due terzi dei parlamentari e dei parlamentari, senatori e deputati non presenti in aula, ma tutti quelli che coprono quel seggio, quindi anche le persone che non vanno in aula quel giorno risultano come se votassero contrariamente, quindi è difficile ottenerla anche per questi due terzi. Comunque è difficile perché non c'è la volontà politica, quindi Nitto Palma ha già escluso la soluzione, come dicevamo. Quindi quella torna qui sull'amnistia l'agenzia, Quella sull'amnistia sembra dunque una battaglia non destinata ad avere grande seguito, se è vero che già nel convegno organizzato a fine luglio dai radicali, a cui hanno invitato appunto anche Napolitano che aveva detto quelle cose, tutti gli altri, ministri, parlamentari, eccetera, era stata da più parti sottolineata in modo trasversale la necessità di ricorrere piuttosto a interventi strutturali che passino attraverso la depenalizzazione dei reati minori, la costruzione di nuove carceri, una modifica delle modalità alla custodia cautelare, considerato che il 50% dei detenuti è ancora in attesa di giudizio, non sono condannati, quindi potrebbero anche sono innocenti e non dovrebbero stare in carcere. Vabbè, vedremo, poi analizzeremo queste proposte, valutazione sulle quali pesa in parte anche il giudizio negativo sui risultati dell'ultimo indulto, quello del 2006, considerato non risolutivo perché ridusse drasticamente il numero dei detenuti, che però nell'arco di 2 anni successivi tornò a crescere fino ai numeri di oggi. Ma il problema, vabbè, questa, pure qui c'è un po' un imbroglio che poi spiegheremo. Alla vigilia dell'appuntamento al Senato, il guardasigilli arriva quindi al ministro, la sollecitazione dei sindacati di polizia penitenziaria, che invece domani faranno un sit-in perché loro dicono che stanno sotto organici rispetto al numero di presenze in carcere. Allora, quali sono le cose che non vanno bene di queste cose? Allora, quali sono gli interventi strutturali? Intanto è da chiarire, perché qui ci arrivano delle lettere, ora ne leggeremo una. Purtroppo nelle carceri giustamente si vive, lo sapete, il cibo principale per sopravvivere in carcere è la speranza, quindi uno la va a cercare anche laddove ve ne è poca, anche nelle parole dei chiacchieroni, perché la speranza serve in primo luogo a sopravvivere. Tuttavia è giusto avere speranza, ma è meglio che questa speranza venga, come dire, posta sulle proprie capacità di protesta, di lotta, e casomai sulla capacità di collegare le lotte interne al carcere alle lotte all'esterno, perché questo potrebbe modificare gli assetti. Le chiacchiere parlamentari non servono a niente, non è una novità, perché si sono pronunciati contrari all'amnistia tutta la compagine governativa e anche gran parte dell'opposizione, quindi sono tutti contrari, per cui dove possiamo sperare che avvenga? Le forze parlamentari di governo e di opposizione sono contrarie all'amnistia. Dicono provvedimenti strutturali. Bene, quali sono questi provvedimenti strutturali? Sono: uno, la costruzione di nuove carceri, che è privilegiata da tutti, prevalentemente dalle forze del governo, perché è un grosso business. Nel senso che le ditte che costruiscono carceri, stante il fatto che vi è la categoria emergenza sul problema delle carceri, gli appalti vengono dati in maniera molto più allegra, molto più semplice, molto bypassando, scavalcando una serie di controlli. Quindi è possibile, anzi è certo, che molti appalti della nuove costruzioni carcerarie vengano date a imprese, ditte che hanno dei rapporti di amicizia con i governanti, eccetera eccetera. Quindi questa cosa è in corso, succede, è un grosso business, e quindi si punta a costruire nuove carceri. Inoltre poi si dice puntare al problema della depenalizzazione dei reati minori. Perfetto, questo sarebbe un bel problema, però questa stessa compagine di governo rimarrà famosa, perlomeno chi si interessa di problemi della giustizia, non tanto per avere, almeno chi seriamente se ne occupa, non tanto per avere un presidente del Consiglio, il signor Berlusconi, che è una delle persone più inquisite tra tutte le forze, gli uomini e le donne politiche della Repubblica Italiana, ma perché ha varato, quindi verrà ricordato il governo Berlusconi prevalentemente perché ha varato ha fatto delle leggi che sono quelle che hanno prodotto l'innalzamento del numero dei carcerati. Sono stati quelli, e le elenchiamo. Allora, la Bossi-Fini sull'immigrazione, che è fino all'ultima, che la prima era Bossi-Fini, che creava tutto un problema che avvicinava sempre di più l'immigrazione al carcere. Successivamente hanno addirittura introdotto il reato di clandestinità, quindi l'immigrazione definita clandestina, che è un'interpretazione del tutto burocratica, è diventato reato, quindi quote di immigrati che non fanno nessun... che fino a qualche tempo fa erano considerati appunto immigrati, vengono considerati persone che fanno reati e quindi portati in carcere. Quindi vedete, il reato viene inventato, è una costruzione sociale, stante i rapporti di forza esistenti in una società. E non è una cosa di principio che viene chissà dai valori etici o morali, no, è semplicemente perché vogliono controllare le quote di immigrazione, ma con l'unico scopo di tenere basso il costo della forza lavoro. Questo gli interessa a coloro che governano, perché gli immigrati sono forza lavoro, non è che sono persone che vengono qui a fare turismo o a passeggiare. Quindi per tenere basso il costo della forza lavoro creano la categoria della clandestinità, in modo che l'immigrato che viene definito clandestino è disposto a lavorare anche a pochissimo, perché il lavoro gli permette casomai di uscire fuori da questa clandestinità e acquistare il permesso di soggiorno, quindi si rende disponibile a lavorare a un salario molto più basso di quello che potrebbe pretendere se fosse un lavoratore, diciamo, con tutti i diritti e le carte a posto. Il meccanismo è solo e soltanto questo, e non vi fate inventare di altre chiacchiere. I CIE, i centri di identificazione ed espulsione, il reato di clandestinità, tutte le chiacchiere che fanno intorno all'immigrazione sono volte esclusivamente a tenere basso, sempre più basso, il costo della forza lavoro migrante, che è una grossa, come dire, è una miniera di d'oro per gli imprenditori grandi o piccoli di questo paese, perché possono, col ricatto della clandestinità, del permesso di soggiorno, eccetera, possono utilizzare appunto forza lavoro a un costo bassissimo, in quanto questo ricatto appunto costringe queste povere persone a sottomettere, ad accettare qualunque tipo di lavoro a qualunque salario. Quindi i CIE vengono fatti esclusivamente per quello, come una volta vennero fatti i carceri per regolare il costo della forza lavoro, tenerlo basso, in quanto andavano a raccogliere. Le carceri nascono per quello, l'abbiamo detto mille volte, ma è bene tenerselo scritto vicino a dove si dorme, così quando una mattina si sveglia si rende conto e non dà retta a tutte queste chiacchiere di criminali bastardi che girano e che dicono un sacco di stupidaggini. Il carcere è nato semplicemente per andare in giro a raccogliere i vagabondi che non volevano accettare di andare a lavorare nelle nascenti fabbriche del 600, del 700, in condizioni disumane per 13 ore al giorno, e quindi se ne andavano in giro vagabondando, le guardie le andarono a rastrellare e li portarono nelle carceri, che erano poi delle case di lavoro forzato, per dirgli: guarda che il tuo destino è quello. Perché? Perché questa massa di lavoratori ripresa, portati in carcere, disciplinati a lavorare e poi ributtati sul mercato del lavoro, facevano aumentare l'offerta di lavoro, di braccia disponibili a poco prezzo, e quindi calava il prezzo della forza lavoro. Il carcere è nato originariamente per quel motivo. Adesso, poiché la gran parte di forza lavoro nuova è migrante, hanno fatto il carcere, ha partorito il suo figlioletto che è il CIE. Un mostro produce un altro mostro, è il figlio di un mostro. Carcere non poteva essere che un altro mostro, che è il CIE, e che il cui compito è lo stesso. E allora, diciamo, quindi il problema, diciamo, depenalizzazione. Beh, la prima cosa da depenalizzare è questo fatto della migrazione, che è stata resa un reato, è diventato un problema che ha a che fare col carcere, invece che dovrebbe avere a che fare con i meccanismi di accoglienza, di integrazione, eccetera. Vabbè, e l'altro è quello grosso delle tossicodipendenze. Tossicodipendenze, che le altre grosse leggi, sempre la fine di Giovannardi e con le successive modifiche, hanno riempito le carceri anche di consumatori di sostanze stupefacenti, anche quelle minori, insomma. E infine, appunto, l'altra legge grossa che ha riempito le carceri è quella sulla recidiva, la cosiddetta legge ex Cirielli, sempre fatta da questo governo. Quindi non si capisce questo governo come può discutere di depenalizzazione quando negli ultimi 10 anni in cui ha governato, ha fatto tutte leggi che hanno incrementato il carcere. Non è vero, cioè, l'aumento delle persone in carcere non è dovuto all'aumento dei, che ne so, dei reati tipo rapine o altre cose che sono invece in diminuzione, è dovuto al fatto che alcuni comportamenti sono diventati, questo governo si è inventato da d'amblè di farli diventare reati per motivi che abbiamo detto, perché ci gli interessava il business. Poi c'è un altro motivo generale, quello che ha detto pure Nitto Palma, se uno se ne esce così chiaramente si capisce che tipo di sottocultura criminale ha, che è quella di dire bisogna salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Ma se la maggior parte di coloro che stanno in carcere sono persone che non hanno fatto nulla, non hanno aggredito altre persone, non parliamo di persone che hanno aggredito altri e quindi possono mettere in discussione la sicurezza dei cittadini, qui parliamo di un 30% di persone che stanno in carcere che sono migranti, la cui loro colpa ritenuta tale da questi carogne che governano è dovuta al fatto appunto che sono immigrati in cerca di lavoro, e l'altra sono prevalentemente consumatori di droga, altrettanti, che sono oltre il 30%, quindi 35 più 30, 65%, due terzi della popolazione detenuta sono dentro per una volontà punitiva che non ha nulla a che vedere. Ora, noi riteniamo che il carcere vada abolito per tutte le categorie di reati, il concetto di reati non lo riteniamo vecchio, appartenente a persone che hanno un brutto rapporto con se stessi, con la vita, con la gioia di vivere, con la positività della vita. Sono persone tristi, brutte, volgari, ignoranti, abiette, quelle che parlano appunto di reati. I reati non esistono, il reato è una categoria inventata dagli stati, dalle polizie, dai questurini di tutti gli stati per giustificare la loro funzione, per dire vedete se non ci sono io questi che ho arrestato avrebbero fatto, non avrebbero, sono tutte invenzioni. Comunque sia, è chiaro che per questo 65% di persone costruite negli ultimi 15 anni, tant'è vero che se nel 92 la presenza nelle carceri italiane era di 32.000 persone, 33.000 persone. Ora, come vedete, gli aumenti sono dovuti a queste due grosse categorie. E poi dicono, e l'altro elemento è la custodia cautelare. Va bene, la custodia cautelare è vero, il 47%, non il 50%, il 47% sono di questi 67.000 detenuti, sono persone non ancora condannate in via definitiva, quindi secondo la cosiddetta Costituzione, che sta sulla bocca di tutti, anche se credo che nessuno dei giornalisti e dei politici l'hanno mai letta realmente, che capita, comunque queste persone sono da ritenersi innocenti, e allora questo Stato mette in carcere gli innocenti. Che legittimità può avere uno Stato, un sistema punitivo che mette in carcere delle persone che lui stesso, perché la Costituzione è di questo Stato, è fondante, ci dicono, di questo Stato, di questa Repubblica, quindi perché tiene in galera delle persone che lui stesso definisce innocenti? Perché la Costituzione dice una persona è da ritenersi innocenti fino a che non è intervenuto l'ultimo grado di giudizio. In Italia abbiamo tre gradi di giudizio: primo grado, appello e Cassazione. Quindi fino a che, dice la Costituzione, non è intervenuto il terzo grado di giudizio, ossia la Cassazione, e quindi infatti risulta che uno è condannato definitivamente, quella persona è da ritenersi innocente. Questo dice la Costituzione, che è la legge fondamentale di questo Stato. Questo stesso Stato fa finta di niente, butta via quel pezzo di carta e mette in galera delle persone che lui stesso definisce innocente. Noi il termine innocente colpevole non lo usiamo mai, perché è una coppia che riteniamo abbastanza volgare anche questa. Che vuol dire le persone innocenti colpevoli? Ma io parlo proprio per quello che dice questo stesso Stato. Da una parte dice che sono innocenti, dall'altra parte le butta in galera. E allora c'è qualcosa che non va. Evidentemente questo Stato non ha nessuna legittimità. Ora dicono che vogliono rivedere la carcerazione preventiva, che appunto tiene in carcere il 47% di persone non ancora condannate. Però sono tutte chiacchiere, anche perché quali sono le misure alternative? Gli arresti domiciliari? Gli arresti domiciliari sono pesanti, tra l'altro gli arresti domiciliari sono diciamo un grosso problema, non solo per chi vi viene messo, è chiaro che chi passa dal carcere agli arresti domiciliari è per lui è meglio, però tutta la, non è che quelli che vivono in carcere hanno la villa dove andare a trascorrere gli arresti domiciliari. In genere gente che appunto è la povertà che viene incarcerata in questo periodo, sempre in questo periodo in particolare, quindi vanno a vivere in case anche se sovraffollate con altri. Bene, sottoporre queste persone a stress continui, in quanto i controlli quando sono nelle semicerie vengono a tutte le ore, alle 2 di notte, alle 4 di mattina, insomma, è chiaro che è una cosa pesante. A volte abbiamo letto molte lettere in cui dei detenuti dicevano: stavolta rifiuterò gli arresti. L'altra volta proprio abbiamo letto una lettera in cui si diceva, una detenuta mi pare diceva, però non vorrò andare, se mi danno gli arresti domiciliari non li voglio accettare perché non voglio sottoporre i miei, evidentemente i genitori, a stress continui con questi controlli di notte. Va bene, insomma, questa è la cosa. Ora, purtroppo nella lettera che adesso andremo a leggere e come da tutte quelle che abbiamo ricevuto in questo periodo, c'è questa aspettativa, purtroppo, come dire, piantata sul nulla, perché il meccanismo, tra l'altro, questo, vabbè, poi questa cosa la diciamo da sempre, poi faremo più in là, cercheremo di fare anche una ricostruzione storica per come è avvenuto questo processo che molti analisti, studiosi chiamano panpenalismo. Il panpenalismo, pan vuol dire tutto diventa penale, no? È un processo che va avanti da tempo. In realtà, lo diciamo come sommario, poi ne parleremo appunto dettagliatamente nelle trasmissioni successive. Quando nacquero nell'Ottocento, dopo la Rivoluzione Francese, insomma gli stati liberali, un punto cardine degli stessi stati liberali era quello di dire: uno stato è veramente liberale e anche quindi libero secondo loro se ha poche leggi, poche sostanziose, e è in grado, diciamo, di regolare la vita dei cittadini, di fare in modo che nessuno offenda gli altri, eccetera, e poi il resto deve essere la libera iniziativa delle persone. Questo era un assunto, una legge, una regola che si davano tutti gli stati. Ovviamente queste erano fantasie più dette per avere, poi qualcuno può darsi ci ha pure creduto, non voglio dire, i liberali dell'Ottocento probabilmente ci hanno creduto, non lo so, comunque non è questo importante. Sono quelle cose che si dicono più che altro per fare propaganda. In realtà gli stati cosiddetti nati come liberali dell'Ottocento, e poi hanno cambiato forme, però insomma sempre quelli sono, si sono trasformati in ogni diciamo tempo che passava trasformavano dei comportamenti umani che a volte erano semplicemente sanzionabili sul piano morale dai cittadini in provvedimenti penali, quindi dei comportamenti delle persone diventavano improvvisamente reati e quindi scattava il sistema penale, il carcere con tutto il resto. Questo processo è andato avanti, ha avuto una grossa nel secondo dopoguerra, ha avuto un grosso diciamo in basso, e soprattutto molto ha risentito dei periodi di crisi. Il dopoguerra ha segnato, dopo il primo grosso sviluppo volta a ricostruire in prevalenza l'Europa che era tutta devastata, nella metà degli anni 60 si sono avute le prime crisi, poi la crisi del 73 è stata fortissima, poi gli stati europei fondamentalmente, ma anche quello nordamericano, si sono trovati a dover far fronte a una ribellione delle giovani generazioni che voleva cambiare queste mostruosità che avevano che si erano ricostruite sulle macerie del dopoguerra senza cambiare nulla, riprendendo dai regimi precedenti, che so, per esempio riciclando tutti i nazisti per quanto riguarda la Germania, in Italia riciclando tutti i fascisti, i peggiori criminali di guerra venivano ripresi, gli si cambiava la casacca e venivano messi ai posti di comando. E beh, a un certo punto le giovani generazioni si sono ribellate a questo stato di fatto e hanno chiesto prima, e poi hanno cominciato a lavorare, a protestare e poi a lottare anche in maniera robusta per un cambiamento reale e radicale della società. gli stati sono visti costretti a, sono visti così, per mantenere i loro sporchi vantaggi, i loro sporchi interessi, si sono mafiosi prevalentemente, perché poi tutti questi stati sono ricostruiti insomma, intorno ai sistemi mafiosi. E non pensate quando si dice che degli stati fanno lotta alla mafia, certo fanno lotta ad alcune cosche mafiose, ma non alla mafia in generale, che invece ha plasmato completamente gran parte degli stati europei, credo quasi tutti gli stati europei, sono, non parlo degli altri ma perché non li conosco, probabilmente è ancora peggio, sicuramente, non tutti, però quelli europei abbiamo la ricostruzione storica abbastanza precisa. Quindi riciclo dei criminali dei passati regimi fascisti e nazisti, riplasmazione su un sistema clientelare mafioso, è chiaro che la ribellione è stata forte, dura e giustamente violenta. A questo hanno risposto inasprendo le misure. A quella crisi ne è succeduta altra, ad ogni crisi i sistemi penali si ingrossavano. Quindi questo processo di panpenalismo significa che vari comportamenti, l'abbiamo visto nella immigrazione. L'immigrazione è vecchia come l'umanità. L'umanità, questa, quello che siamo noi, no? L'umanità in cui facciamo parte, è prodotta dall'immigrazione. L'Homo sapiens è nato in una parte del mondo, in un'unica parte del mondo, presso il lago Vittoria del Tanganica, da quella parte lì, e poi si è migrato in tutto il mondo per popolarlo. Quindi l'immigrazione è connaturata al nostro essere, tanto è vero che la voglia di muoversi, di viaggiare è connaturata, siamo fatti così. Quindi è un elemento umano, come il bere, il mangiare, il muoversi. Potremmo criminalizzare il bere e mangiare? Sì, ci arriveranno. Infatti il fatto che l'acqua è diventato un profitto significa che, per esempio, se tu non paghi la bolletta dell'acqua, quindi se tu vuoi bere gratis, fai un reato. Quindi, come vedete, anche il bere è diventato un reato. Figuratevi il muoversi liberamente. Quindi quella che viene chiamata migrazione è semplicemente un bisogno naturale come il bere e il mangiare. E le altre, fare l'amore, le altre cose, no? Cantare, parlare. Questa cosa e siccome l'immigrazione è nata prima l'immigrazione e poi i burocrati amministrativi che mettevano i timbri sui pezzi di carta, quindi l'immigrazione è sempre stata clandestina nel senso che non è prevista da nessuno né controllata da nessuno. La gente si muoveva, che ne so, popolazioni, per esempio, abbiamo letto sui libri di storia, che ne so, le popolazioni tedesche vengono dall'Asia, la popolazione ungherese viene dai territori della Mongolia e così via, no? I franchi che hanno popolato la Francia venivano anch'essi dal centro dell'Asia, insomma, tutti sappiamo queste cose qui, quindi, ed erano immigrazioni clandestine, quindi il migrato clandestino, ognuno di noi è un immigrante clandestino, ciascuno di noi. Tranne gli imbecilli che non capiscono questa cosa, ma quelli sono un problema a parte, cioè è un problema di imbecillità, non di... Quindi, e questa cosa è diventata reato, è come se bere è un reato, infatti anche bere, perché tu tra un po' ci mettono dentro, sicuramente ci tagliano la fornitura d'acqua se non paghi la bolletta, e quindi come vedete anche il bere è un reato, mangiare lo è perché se non hai soldi, insomma vabbè, comunque sia, questa cosa è veramente allucinante, creare la figura dell'immigrato clandestino, perché siamo tutti migranti clandestini, in quanto nessuno ha la propria stirpe che è nata nel quartiere dove vive, tutti veniamo, i zio, i prozii, i nonni, i bisnonni, i trisavoli sono venuti da qualche parte. Prima o poi qualcuno si è mosso, ovviamente. Quindi questa cosa che sul piano della ragione è veramente demenziale e bisognerebbe prenderli a calci nel sedere quando sento parlare dei giornalisti o dei politici di immigrazione clandestina. Dicono è una contraddizione in parole, una parolaccia, una parola che denota soltanto gli imbecilli, quelli col botto proprio, no? Infatti basta guardarli in faccia, insomma, come dire, la natura poi non mente. Insomma, ed è diventato un reato, cosa che se qualche decennio fa qualcuno lo diceva, la gente si mette a ridere, ma te pare che arriveranno a questa assurdità? E ci sono arrivati. Va bene, ora ci prendiamo uno stacco musicale, va. We'll be right back. Allora, dunque, le 15:43 minuti, leggiamo allora questa lettera che ci arriva dal carcere di Perugia, il carcere delle Capanne di Perugia. È una lettera a cui credo che molte compagne e compagni di questa radio dovranno rispondere, perché insomma, questa compagna che ci scrive dal carcere di Perugia è una compagna che probabilmente molti conosceranno, perché da quello che dice, vediamo cosa dice, insomma. Cari compagni e compagne di Radio Onda Rossa, sono una compagna del Tufello, quindi di un quartiere di Roma. Mi chiamo Monica, sono cresciuta al Sisto, hai visto Quinto, che era un centro sociale tra i primi di questa città, quindi molti e molte ricorderanno. Monica si chiama lei. Ho fatto la lotta per la casa col comitato di case occupate di San Basilio, quindi anche qui un altro bel gruppo di compagni e compagni di Roma probabilmente hanno fatto la lotta con lei. Poi ci hanno dato la casa a Ponte di Nona, da sempre sono una compagna, vabbè, e qui e dice asta sempre comandante, vabbè. Ho tanti ricordi con voi, cortei, feste, centri sociali, il corteo di Valerio Verbano, la lotta per la casa. Purtroppo ora mi trovo in carcere per rapina, 3 anni più un'evasione. Ma la cosa brutta è che mi trovo al carcere di Perugia, carcere di Capanne. Non funziona nulla. Siamo sempre chiuse, a parte l'aria che fa schifo. È piccola e vedi solo cemento, e la socialità che una persona, che una detenuta può fare per andare nella cella di un'altra, c'è solo quella socialità, che non dice a che ora, ma credo nell'ora di cena. Prima stava a Re Bibbia, che in confronto a qui, anche se è sempre un carcere, è veramente tutta un'altra storia. Nemmeno paragonabile. Purtroppo sono stata trasferita qui a causa dei rapporti disciplinari che ho preso a Re Bibbia, quindi per punizione. In questo carcere non funziona niente. Le carenze che ci sono fanno paura e ci impediscono di condurre un'esistenza dignitosa. È proprio un mondo a parte. Come può funzionare il discorso della riabilitazione se in questo posto non ti offre nulla? Il problema è che la riabilitazione, cara Monica, che probabilmente non ci puoi sentire perché stai a Perugia, però le tue compagne che stavano prima con te a Re Bibbia, sì, e insomma, purtroppo la riabilitazione o rieducazione che sia, o redenzione come la chiamano alcuni, insomma, è un po' una grossa fandonia. È come la Befana, non è vero che esiste, no? Lo si crede fino a 6 anni, 7 anni, poi vabbè. L'educatrice, comunque, però i fatti al di là, lei probabilmente parla di riabilitazione come fatto concreto, di uscire prima, no? L'educatrice, che è funzionale non tanto per rieducare, come dice la parola, ma per avere i permessi, eccetera. L'educatrice è come se non ci fosse. Quando ti chiama, dopo 10 domandine, nemmeno sa chi ha di fronte. Questo fa paura, infatti le istanze le dobbiamo fare da sole, come anche tutto ciò che compete i nostri diritti, i permessi, la liberazione anticipata e via dicendo. Quindi vedi, quello che lei, che Monica, diciamo, dichiara la mancanza è della, non tanto che crede nella riabilitazione ovviamente, ma ha della possibilità, tramite il lavoro degli educatori, le educatrici, di avere i permessi, la liberazione anticipata e tutta la semilibertà, insomma, quelle cose che ti permettono di uscire un po' prima dal carcere. Continua Monica, del mangiare non ne parliamo proprio, vabbè, questo è chiaro. Dieta forzata, se non hai soldi per comprarti qualcosa per cucinare, puoi anche fare la fame. Le guardie non sono organizzate e ci creano solo tanta confusione psicologica, cioè fanno cacciare anche loro. Ogni giorno le regole cambiano, il lavoro non c'è, la sanità non esiste, anzi, visto che siamo sempre chiuse, c'è la psichiatra che ti segna le peggio schifezze pur di tenerti calma, così non dai fastidio. I farmaci più diffusi in carcere, l'abbiamo denunciato 1000 volte, sono gli psicofarmaci per addormentare. E questo l'abbiamo, diciamo noi, però. Continua Monica. Nella cella non si può nemmeno alzare la voce, che subito passa una guardia e ti dice di abbassarla. Addirittura l'avvocato si può chiamare solo un giorno alla settimana, fino alle 15. Ma quale avvocato lo trovi in quell'orario, che fino a quell'ora stanno in tribunale? Chiaro, gli avvocati in genere la mattina hanno le udienze al tribunale e il pomeriggio vanno a fare le visite al carcere. Questo è il funzionamento. Quindi fare fino alle 15 è veramente una violazione del diritto della difesa. Come vedete, questo è veramente, non ha nessuna legittimità più questo Stato, questo sistema carcerario, perché infrange le sue stesse leggi. Non è che infrange quello che vogliamo noi stiamo tutta un'altra parte, ma infrange le sue stesse, dice una cosa e poi la smentisce, quindi sono una banda di criminali, come definirli altrimenti? Vabbè, continua Monica. Assurdo, una mia compagna di cella con il prosciutto che ci danno si è rotta un dente. Meno male, chissà che prosciutto era. Accidente. Qui a Perugia si prende radiocarcere e sentiamo che Pannella continua a darsi da fare per l'amnistia, che Napolitano lo sta appoggiando. Ecco, qui arrivano purtroppo alle speranze, però appoggiate sul nulla. E continua Vania, ma io tengo tanto a sapere voi cosa ne pensate. Io l'ho detto che ne penso, purtroppo lei non l'ha riuscita a sapere. Proveremo a scrivergli due righe. Il governo è propenso a concedere questa amnistia? Ci mette un bel punto di domanda. No, cara Monica, non è assolutamente propenso né il governo e nemmeno l'opposizione. Forse tranne, qui dicono le agenzie, forse qualcuno di SEL, Sinistra e Libertà, il partito di Vendola, vedo qui che Cento ed altri sarebbero disponibili ad appoggiare i radicali, ma sai, saranno in tutto 7-8 persone sui centinaia di parlamentari, quindi nemmeno l'1%. Pensate che ci possiamo sperare? La risposta nostra è no. Agli interrogativi di Monica purtroppo dobbiamo rispondere no. Non è questa la strada da percorrere, è un'altra, è quella di organizzare con calma, ovviamente con serietà, delle proteste, collegarsi con l'esterno e provare a produrre una pressione che possa fare qualcosa. La storia di questo paese insegna questo, non solo di questo paese. Continua Monica, si parla anche della depenalizzazione dei reati minori, è quello che diceva anche l'agenzia, ma in concreto cosa vogliono dire? Quali reati ci rientreranno? Qui l'interrogativo che mette lei non sappiamo rispondere, perché quali reati, e se uscirà qualcosa, cosa pensate che uscirà e quando? Una serie di interrogativi veramente, ma l'ho capito, in carcere queste sono le domande che si fanno. Ecco, per ora le mie domande sono finite, avrei ancora tanto da raccontarvi, ma per ora va bene così. Vorrei tanto delle risposte, dei pareri, poter scusate, vorrei iniziare una corrispondenza duratura. Vi porto sempre nel mio cuore, care compagne e compagni, hasta la vittoria sempre. Se vi sono rimaste le agende scarcerante, vi voglio chiedere se le potete spedire a due mie compagne, e questo poi i nomi li metteremo a coloro. Oh, ecco, questa e altre lettere ci chiedono perché non arriva ancora la scarceranda nuova, non è ancora uscita, dateci un po' di tempo, non siamo, siamo pochissime persone e facciamo i salti mortali, ma l'agenda si farà, però probabilmente verso ottobre uscirà. E comunque a chi l'ha chiesta arriverà, non preoccupatevi che vi arriverà. Monica, probabilmente proveremo a risponderle così, però appunto questa cosa, a proposito delle domande che fa lei, qui abbiamo prima i giornalisti, prima di questa udienza parlamentare che c'è oggi, alcuni hanno domandato a Patrizio Connella, presidente dell'associazione Antigone, e dice: spero che in Senato non si assista solo a un bel dialogo, ma si faccia di tutto per uscire da una situazione delle carceri vergognosa dovuta a troppi errori fatti in questi anni dalla classe politica. Noi stimiamo Patrizio Connella e Antigone, però ecco, terrei a correggere qui il problema, non sono gli errori fatti da questi anni della classe politica, sono delle scelte volute a spacciare per sicurezza, buttare gente nelle carceri. Questa è stata la scelta voluta, purtroppo non c'è niente di non sono errori, magari fossero errori. E ecco, lo dice Patrizio Connella, presidente dell'associazione Antigone, a proposito della sessione straordinaria del Senato, eccetera eccetera, sottolineando inoltre come sia necessario, dice ancora Connella, per risolvere il problema del sovraffollamento, la depenalizzazione di alcuni reati, oltre l'utilizzo di tutte le strutture carcerarie esistenti, eccetera. Lui lo precisa, però questa è la voce di Antigone che non ha forza in Parlamento, la legge sulle droghe. Quindi la fine Giovannardi, abbiamo detto, perché sono quasi il 40%, 35-38% le persone in carcere per uso di sostanze stupefacenti. Quindi la legge sulle droghe, l'ex Cirielli, quella appunto della recidiva, dovrebbero essere riviste e depenalizzate. Quindi loro puntano su queste due leggi che in realtà tengono in carcere molta gente. In questo modo, sempre lo dice Patrizio Connella di Antigone, si riuscirebbe a diminuire in modo considerevole il numero dei reclusi all'interno degli istituti penitenziari. È inoltre doveroso che la politica cerchi di sfruttare al meglio le risorse che ha già. Ci sono nel nostro paese molte strutture non utilizzate, altre come quelle a Spinazzola in Puglia chiuse senza motivo. Vabbè, il problema però secondo noi non è di aumentare le carceri, ma di diminuire le persone recluse. È inoltre necessario, sempre Gonnella di Antigone, rafforzare le strutture e le forme di reinserimento sociale dei carcerati. Che ti vuoi reinserire qui se le persone quando escono non dal carcere ma dall'università non trovano lavoro? Figuratevi quelle che escono dal carcere. Quindi il problema è che c'è da reinserire. Qui ci sarebbe da reinventare la società, riplasmarla, ricostruirla, rifondarla, la società in cui stiamo, non reinserire quelli come, cioè, lo sappiamo tutti abbiamo un amico, un parente, un conoscente, persone che appunto sono uscite dall'università, da corsi di specializzazione, da tante cose, e rimangono disoccupati. Se uno esce dal carcere pensate che ha più chance? Ovviamente no. E la disoccupazione giovanile, quella sotto i 30 anni in questo paese, da 30 anni in giù, raggiunge quasi il 40%, quindi che vogliamo, di che stiamo parlando? Quindi quale, che c'è da reinserire? Ci sarebbe da reinserire nel buon senso la classe politica, cioè nel far politica in maniera seria, ma loro hanno altri interessi, quindi non lo faranno mai. Vabbè. Questo è quanto si dice, quindi domani si saprà qualcosa, ma non c'è da farsi nessuna illusione, perché non partorirà alcunché di nulla. Il problema è che questo sistema ha già, cioè ormai il termine, l'aggettivo democratico viene usato per definire quelle società, non era così originariamente, non c'entra niente che la decisione viene fatta dai cittadini, viene fatta da molte persone. Il termine democratico oggi, nell'accezione materiale concreta che ha nelle società, ha questo significato. Allora, si definisce Stato, paese democratico, Stato democratico, quello Stato nel quale le vergogne che ci stanno non vengono occultate, ma se ne può parlare. Senza che vengano risolte. Questa è l'accezione di paese democratico. Mentre un paese dittatoriale non se ne parla, in genere nascondono quello che succede. Per esempio, insomma, durante il periodo fascista i problemi delle carceri venivano nascosti, non si parlava, c'era la censura, i giornali non dovevano parlare di quello che succedeva nelle carceri, quindi non si sapeva niente. La gente stava bene, si suicidava, moriva, si accoltellava, scoppiava rivolte, non si doveva sapere. I giornali avevano il divieto di parlare di carcere, così come il divieto di parlare a volte quando dovevano dimostrare che l'Italia fascista andava bene, dicevano la cronaca deve parlare solo di aperta inaugurata nuova scuola, il bambino della scuola ha aiutato la vecchietta ad attraversare la strada, e i bambini organizzati hanno allevato un cagnolino che era randagio. Ecco, queste belle cose qui, gli accoltellamenti, le risse, gli omicidi non se ne parla, perché bisogna dare un'immagine del paese roseo, bello, tutto regolare. Così funzionano i regimi fascisti, e quelli democratici invece si dicono queste cose, però non è che si affronta. Allora, è democratico quel paese che dice nelle carceri si sta male, se ne discutiamo pure in Parlamento, quindi ti diranno, vedete, noi siamo democratici, discutiamo in Parlamento che c'è l'emergenza carceri. Il ministro di questo governo dice, ma non si può vivere, oggi ha detto pure, in una, sempre parlando, appunto facendo la relazione introduttiva, ha detto noi abbiamo una vergogna, noi abbiamo una vergogna, cioè lui e i suoi amici di governo, abbiamo ancora gli OPG, cioè manicomi criminali dove la gente viene massacrata, bla bla bla. Ho capito, ce l'avete da 15 anni, stanno al governo, ce l'avete, che aspettate a togliere? Che aspettate, che scende giù Babbo Natale? Cioè, capite? Ecco, lui dice, è democratico perché, vedete, il ministro dice, in carcere si sta male, c'è l'emergenza carcere, gli OPG fanno schifo, però gli OPG rimangono ancora, il letto di contenzione continua a funzionare, l'elettroshock continua a funzionare, le celle di isolamento continuano a funzionare, in carcere si continua a morire, si continua a star male, però è democratico questo paese perché se ne discute, ma nessuno cambia niente. Quindi vedete, l'accezione, la parola democratica ha cambiato di significato, mentre una volta noi da ragazzi, poi l'abbiamo capito su abbastanza presto, pensavamo che democratico significasse che la decisione per decidere qualcosa aspettasse a tutta la popolazione, a tutti noi. Vabbè, questo veramente fino a una certa età l'abbiamo creduta, poi abbiamo aperto gli occhi. In genere a queste cose ci si crede, la Befana si crede fino a 6-7 anni, alla democrazia si crede fino a 15-16, secondo l'esperienza di ciascuno, 15-16 anni. Oltre diventa patologico. Credere alla Befana dopo i 7 anni o alla democrazia dopo i 17-18 diventa patologico, vuol dire che uno ha qualche problema insomma, nel ragionare, quindi ha qualche problema di qualche difetto di ragionamento, mettiamola così. Raise your can of beer on high and seal your fate forever. Our best years have passed us by, the golden age of Va bene, abbiamo fatto le 16, quindi le 4 del pomeriggio, quindi termina questa puntata della Conta di questo mercoledì 21 settembre, l'altro oggi finisce l'estate, insomma, il giorno di passaggio, l'equinozio, passaggio dall'estate all'autunno, quindi benvenuto autunno, ciao estate, ci vediamo il prossimo anno, ma il problema è che insomma... noi vorremmo che la prossima estate e quest'autunno, la prossima primavera e la prossima estate vedano coloro che adesso ci ascoltano dalle galere e che ci possano ascoltare dalla libertà. Insomma, l'augurio è di riconquistarla al più presto, la libertà. Buona libertà a tutti e tutte, ci sentiamo mercoledì prossimo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Soffitto e droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò.